canale 10. Circo 5-10. Attenzione, canale 10, ci lascio un ascolto. Canale 10, cucù. Eccolo sul canale 10, ciao Gianni, Marco, hai sentito Gianni, doppio rumo, Marco Scorpio. Negativo Gianni, buonasera Marco. Ah scusa, mi sembrava la voce di Gianni, ciao Franco, conferi. No, Stefano, buonasera. Sei immobile Marco? Sì, QSL, sono immobile alle porte di Sassari. Sì, sì, segnale oscillante, QSL. Sì, e poi ho un'antennina, è proprio così, sarà 40-50 centimetri, è proprio un'antenna, è un'antenna Omega, così, con pezzi pensa che sono i pezzi di un'antenna che aveva Guglielmo Marconi. Quelli ce li ho anch'io, caspita, io ho gli originali, sono presi da lì. Guarda, questo è un pezzo di una gran plena, veramente, aspetta che so, un attimino, scusi, ecco qua, rieccomi. Ti dicevo, è fatta con un pezzo di un'antenna dismessa del Mille Fruscia, capito? Un recupero così che mi aveva dato Guglielmo, la sera eravamo insieme, io, Tesla, Guglielmo, Volt, non mi ricordo chi altri c'era, Frantichino Buttaraccio mi pare, eravamo tutti insieme, stavamo chiacchierando e mi aveva regalato questo pezzo d'antenna che poi ho modificato e adesso la uso qua nella mia BM. Ho capito, ho capito. Va benissimo, va benissimo. Tu sei a casa? Sì, sì. Postazione fissa. Scappa. Questo è un pezzo di antenna che non so se tu hai conosciuto. Non mi ricordo chi la produceva. È una sorta di mini grand plane che avevano fatto, dove c'era lo filo centrale da 2,75 m, no? Poi c'era la parte dell'elemento di supporto che era in nylon, isolato ovviamente, e poi c'era un tratto in alluminio, tornito, un pezzo di alluminio, così, dove c'erano attaccati tre radialetti, piccolini caricati, e poi c'era questo pezzo del supporto, diciamo, che era il piano di terra dei radiali, inclinato a 45 gradi, era direttato per poterci entrare un tubo d'acqua direttamente o comunque un supporto poi lanciare a un palo, capito? E recuperato questi baci buttati da qualche parte, sai come nel tempo si tenge, insomma, questa antenna per la bala cittadina. Sì, ho capito, mi pare che la producesse la LEM, quell'antenna lì, non mi ricordo, sì, ho capito, c'era una ghiera sotto che era per abitarla a un palo, sì, ce l'ho avuta anch'io, una specie di grand plane del genere, sì, un filo centrale e tre radialetti, sì. Sì, che poi era tornita non diciamo che era un po' concava, tutte e tre le faccettature, confermo? Sì, era un pezzo, sì, aveva una forma strana, ricordo che l'elemento del basamento aveva una forma strana, ma devo dire per quel periodo, perché stiamo parlando della fine degli anni 70 probabilmente, decisamente moderno rispetto a quelle che erano le forme che si usavano. Non era della LEM, quella della LEM la conosco perché l'ho avuta, quella aveva una parte in fibra, una parte in alluminio e una parte in fibra, mentre questa aveva il centrale e il centrale in alluminio e i tre radialetti invece rivestiti di plastica grigia, risuonare basso, ma per poi effettuare le modifiche, no? capito, sì, capito, quei radialetti erano pare in fibra di vetro o qualcosa del genere, o vetroresina, qualcosa del genere, e avevano delle piccole cariche proprio molto con un rame molto fino, molto, ma lo ricordo, ce l'ho avuto anche adesso, non mi ricordo, io ho parlato della Lem antenne, magari è un'altra ditta, però insomma uno voleva l'altra, credo che fossero similari la Lem con altre carte, forse che la Lafayette ne faceva qualcosa, forse, non mi voglio sbagliare, comunque ho capito. Va bene Marco, così sta dicendo bene, discretamente, sì, vedo che va benissimo. Perché io devo fare una commissione qua in casa. A presto sentirci, buona serata e buon divertimento. Ciao, chiudo. Beh, cadaveri ce n'è qua in questo canale. Maria Gheraghe. Molti cadaveri ce n'è, superstiti. Ciao. Ciao. Sono soltanto a Marco che era nel 23, capito? Soltanto qua. Ormai su tutta la gira ero 23. Qua ho chiamato 10.000 volte, non mi ha risposto nessuno. Ciao Valerio, come ti senti? Sei empatico. Vai caga, vai. 2.23. Ehi, ehi, Valerio. Kappa. E vabbè. Piano piano, questa influenza è molto brutta, molto molto brutta, e quindi è così, è un casino, cos'è che vuoi tu, vai, tutta la sera, prima Natalina, ho chiamato 10 volte qua, non risponde nessuno, a voi ve ne avete in chivi e andate lì, io già sono sempre in ascolto qua. No, io non ero tutta la sera lì, io stavo facendo roba qua in camera, in questa camera, e visto che c'era gente lì, ogni tanto facevo una battuta così, perché c'era Natalino, ogni tanto poco fa, un attimo fa gli ho detto che, come mi aveva detto, quella caglia era solo 12 euro, no, perché c'è qualche gonzo che paga 12 euro per il baracchino e 12 per il PMR, non ho capito che si paga 12 e si può usare tutte e due. Poi, appena ho salutato, sono passato qua e ho sentito, ciao, sì, ciao da Marco, empatico, sì, empatico vuol dire che mi hai letto nel pensiero, mi sapevi che sei passato qua. Io sono già con 10, per quello che ti ho salutato. Natalina era lì tutta la sera, e poi facevo questo con Gio Maria, Graziano, Marchisio. Io ho chiamato qua, non ha risposto nessuno. Anche la verità, mi stavo facendo la barba, ho sentito Stefano con Marco Scorpio. Però non potevo entrare perché mi stavo facendo la barba. Però era acceso. No, beh, ma non fa niente, ognuno fa dove vuole. Non è un problema quello, l'ho già detto. Io ho chiamato, non mi ha risposto nessuno. Io ascolto, ma non ci parlo perché non mi interessa. Anche se posso parlare, ma non mi interessa. Io sto qua e va. Le decisioni sono quelle, boh, non mi cambia nessuno. Io so quando te la dici, parlo e va. Da nessun'altra parte. Saluto a Valerio. Ciao Valerio. Passo passo arrivi, a quanto ho capito forse sei influenzato, dai, hai detto che sei poco meglio, così ho capito, sì, ma lo sento come di splatter. come Natalino ti ha preso? Lei a Claudio. Io entrerei sul 10, ma dove sono finiti quelli buchi che entravano prima a Franco? Tutti spariti. Ma se vuoi ti dica, io a un certo punto, cioè dove sento gente entro. Sono tutti spariti, ogni tanto, vabbè, raramente chiama disperatamente da lontano Eugenio. So che arriva talmente basso che se lo chiama tanto non mi sente. Sono tutti spariti, Natalino poi con questa gola va e viene, adesso sta migliorando fortunatamente, non lo so, non entra più lì più, ma come entrava una volta a trovarci, non vedi che siamo, sì, sta languendo il 10. A un certo punto se non frega niente più a nessuno, giù ti dica. Adesso mi sto vedendo 8008, se posso faccio un po' di baracchini. Li metterò su eBay, li metterò su forum RGK. Io questa moto la devo mettere in auge, te capi? Non posso tenere una moto ferma. Non posso fare commissioni, non posso fare cose veloci. Se no cosa abbiamo preso a fare questa moto? Devo fare tutto per tutto per rimetterla in funzione. Assicurazione, batteria, revisione. E poi vabbè, quei due bolli arretrati, che è una pezzeria. E ma fallo però, non ti continui a comprare baracchini a te dietro l'armadio. Il fatto stesso che hai detto che non c'è nessuno da poter condividere la radio, quindi cosa ne vai, no? Io ho preso tutti questi baracchini. Vabbè, no, a me non mi interessa manco. Fate quello che dovete fare, giustamente. Io già faccio altro, no? Io con Gianfranco, aspetta un po' di merda che non me la fotte uno, io con Gianfranco due chiacchiere, è entrato anche io due chiacchiere, non mi interessa, ma se c'è gente dentro, mi spiace, è entrato Marco e con Stefano non ho potuto rispondere perché tra l'altro mi stavo facendo la barba, insomma le ho fatto due chiacchiere, se c'è gente io rispondo, se non c'è nessuno. Non è un problema per me, io non vivo di radio, vivo anche di altro, quindi non ti preoccupare. Se volete fare corsi o dove c'è gente fatela giustamente. È così. Va bene, avanti Vali. Ciao Vali, dai, tante cose belle, rimettiti in sesto, già ci aggiorniamo al telefono. Grazie di avermi risposto alle prossime, avanti Beck. Ma lo senti? Per carità. Gianni, se tu non ho capito niente, sei tutto distorto. Abbassa. Guarda, non c'è una volta che entri in grazia di Dio. Ma abbassalo, mettilo vicino all'uno, meno dell'uno, è troppo forte la radio, Gianni. A uno devi metterlo, a uno, perché tu c'hai la voce molto alta, non lo sollevare più di uno. Ce l'ho io a uno, neanche. Non lo sollevare più di uno. E via. Lasciala stare così. Certo quella grande, basta fare bene le regolazioni. Tutto funziona, io mi chiedo come che non esista nelle mie radio. Sono fermi lì, regolate, a posto, no, non tocco niente. Posso sollevare, abbassare leggermente la potenza, ma no, no, non tocco niente, capito? Avanti Marco. Eia, ciao Gianni, ben entrato. Eia, all'inizio, sì, adesso è perfetta, non tocca se nulla. Basta non gridare, c'è un bijou adesso. Claudio, l'altro giorno, quando mi stavate parlando di quella... quel fatto di cronaca, io non lo so, poi ho capito, ho letto sulla nuova, finalmente la nuova, sarà contento l'ex amico mio che l'hanno beccato, poi quel biondino mamma mia di Pulti, io sapevo, non posso parlare, ciao. Sì, non mi ha telefonato lui a me, la sera tardi a dirmelo, lui mi ha avvisato, infatti poi ho acceso la TV e ho visto le scritte degli articolati e ho capito tutto, capito? Ah, però sta bene, quindi imparano a fare i soldi facili, sono arrangiali, e gli baretti, ma gli ho fatto 40 anni di travaglio e io cazzo non faccio nulla, si può dire, capito? Lui non ha mai fatto niente in vita sua, è sempre comandenti, sempre comparendi, e così si fanno i soldi, capito? E vabbè. Magari a volte lo fa, a volte non lo fa, ancora una bellissima radio, te l'ho detto, l'altra volta hai fatto una fara. Io perché ce l'ho già, capito, non è che me potevo prendere un'altra, ce l'ho 4,40. sono, capito? Troppo comodo, qua naturalmente non se ne può parlare, ma sapevo... No, non c'ho niente, voglio dire, c'ho niente. Quel biondino, no, era sempre con lui, mattina, pomeriggio, sera e notte. Secondo me anche a letto andavano, capito? Il biondino, me, quello... Umma, umma. Per carità, vabbè, sarà stato contento Ivan, eh? Una piccola rivalsa dopo quello che gli aveva fatto. Ehi, salve di Dio, il biondino, sì, quello dell'ufficio d'entrata, è pubblica la cosa, non è che... Qualche qua si parla di quello che leggiamo, non è che stiamo facendo nome con io. Ehi, quello lì è al suo braccio destro, capito? Ia. E non l'hanno beccato, no, quell'altro, il vecchio, eh? Non so se lo sai, non dico niente, il vecchio, ti dico solo il vecchio. Il vecchio è sempre amico suo? Il prestanome. Sì, che l'hanno beccato, certo, sono tutto, ma quello, alla fin fine, non ha niente da perdere, quello lì, cosa pensi che le facciano? Beh, come minimo il prestanome dovrebbe andare in galera al posto del titolare, però vabbè, meglio non far darne. Ma sono cose che si sapevano, cioè chi è che non lo sapeva? Sono anche poco intelligenti. Ma penso che quella sì, certo, non se la passa bene, però capito, colpi che prende lui, c'ha tutto fermo, tutto sequestrato, io ho chiamato un mio carissimo amico, ve l'ho fatto entrare io con lui, capito? L'ho fatto entrare io con lui, c'è già un sacco di anni, un 7-8 anni c'è, che guida l'articolato. E proprio l'ho telefonato subito immediatamente, disperato. Disperato perché sono i sigilli giù, capito? Poi partono gli autoarticolati, perché stanno ancora facendo le indagini, quindi sono fermi. Momentaneamente ha detto che gli stipendi li ha fatti, però lui c'è al mutuo, è preoccupato che succeda qualche casino, capito? Perché lavorava in continente, poverino, è riuscito a rientrare qua tramite me perché lo conosceva lui come artista. Quando gli ho detto che c'era un amico che stava cercando, gli ho fatto nome e cognome, ha detto mandamelo subito che lo conosco, che mi serve, quindi sarà tenuto. Adesso se tutto va bene, che sbloccano le cose, va bene, se no è un casino. Ehi, comunque chi vuol fare troppi soldi con poco, boh. Vabbè, peggio per lui. Scommetto che stava ballando nudo Ivan, secondo me, dalla soddisfazione. Tutto, mi ha detto che ha fatto la festa a Campanella. Vabbè. Dopo come l'ha trattato, il minimo era, il minimo. Va bene, riprendi i capri, dai, io sto cenando. Sì, Claudio, sto cenando. Oggi abbiamo pranzato alle 2:15, ci siamo mangiati un kebab da Auchan, per cui adesso sto veramente cenando. Una delle poche volte in questi giorni. Vai, capri. Sì, è arrivato, diciamo, nel primo pomeriggio, non l'ho neanche tolto, non l'ho neanche attaccato, niente. Non voglio fare niente, anche perché poi c'avevo gente, c'ho gente va e viene per questa casa, non rimbocio più, domani c'ho altri due appuntamenti, uno a mezzogiorno, l'altro a luna, figurati, capito? Ne avevo quattro, due di mattina e due di pomeriggio, e quindi non ho avuto tempo, la stanza era chiusa, e dentro la scatola è nuovo, domani mattina che c'ho più tempo, vado alle poste, a fare i riversamenti delle radio, che qua non le ho fatte, e niente, qualche commissione, poi mi ritorno a casa e lo provo sul DAC, il cane più 3, vediamo se funziona bene, lo lascio, se vedo che la modulazione è troppo forte e troppi acuti, lo tolgo e lo metto su un'altra radio, capito? Perché con l'MB più 4 regolata come l'ha regolata Roberto, le tonalità sono un po' smorzate, quindi la modulazione va bene. Ma sono sicuro che il cane più 3 c'ha troppi acuti con quella radio, perché c'ho la modulazione molto forte e quindi c'ha troppi acuti ed è fastidioso. Comunque domani mattina lo proviamo. E sì, questo è bellissimo, è nuovo, è grigio, è versione americana, quindi è proprio adeguato alla radio perché è americana, non è il Turner più 3B quello nero. Questo è grigio. grigio è allo stesso colore di quello del tunnel G2 del 252 della linea di Kraft, uguale, stesso colore di quello. Domani mattina non lo provo, ti ripeto, oggi non avevo voglia, ero impegnato in altre cose, e quindi se no domani mattina mi metto, devo dare una pulitina, ma non c'è neanche un graffio, però devo dare una pulitina, una disinfettata, si sa mai, con l'alcol tutto pulisco dove tocco, e basta, poi lo collego e faccio la prova, vediamo un po' se va, mi metto domani sera, te lo faccio sentire se ci sei, e nulla, così. Quindi Marco sta cenando, che ore sono? 20:20, quindi sì, quasi 25. Va bene, vuoi riprendere Marco? Stai masticando? Quasi masticando. Volevo dire una cosa, adesso non so se è il mio Smitter o se è il segnale di Capri 2. A momenti arriva a 9 durante un passaggio, a momenti sale a 9:10, poi scende, poi sale. È il mio Smitter o l'hai notato anche tu? No, sinceramente no, perché io sono mezzo cibio, quindi la luce del 440 non è molto forte, si vede, ma io così da vicino non vedo, mi devo allontanare. Prova Gianni a avere il segnale stabile. Gianni, sì, infatti sei tu, perché anche a me fai 9:15 meno di 9:10. Va bene, va bene. Ok. Claudio, tu lo stai sfruttando? Cioè, state parlando in digitale con Gianfranco e gli altri? Sì, però è un amatoriale, non siamo in altre frequenze. Sì. Però lo sto sfruttando. Piano piano, che Gianfranco anche lui è sempre impegnato, ma a tempo non ci dobbiamo vedere perché deve fare delle altre impostazioni, delle altre cose, mettermi altri punti, altre, insomma, deve darle una sistemata, l'ha fatto lui così veloce, però appena due minuti già lo sistema. Ma c'ho anche la parte, mi sono inserito anche il canale 1 LPD a livello amatoriale DMR, però no, non ci trasmettiamo lì, no, ci trasmettiamo da altre parti. È inutile dirti che noi con Pomponi o con quei portatili non siamo mai più entrati da due mesi a questa parte, quando è che li avevamo usati, proprio soldi buttati. Qui c'è la chiusura in scatola, e cosa lo lasci chiusa in scatola? Deve essere in stazione pronto ad attaccarlo, no? Infatti i soldi buttati sono stati, dai, non avrei dovuto spendere per quegli apparati. Vabbè, pazienza. Sì, vabbè, per voi è diverso, capito? Per voi è diverso, però ce l'hai, se ti capita l'usci. Per noi stiamo ancora sperimentando, anche perché io pian pianino poi riprenderò tutta la situazione in mano. Adesso spero di chiudere questa cosa della casa, perché una è, diciamo, è arrivata a capolinea, sta aspettando che le concedano il mutuo, quindi appena ci dà l'ok penso che chiudiamo, però stiamo continuando ad avere gente a venire a vederla, quindi sono sempre impegnato, ma appena sono sicuro di inizio a smantellare tutto, così mi porto tutto via e mi rimetto tutto a posto, le cose che devono rimanere a posto, e riprendo in mano la situazione. Per il momento non sto più facendo nessuna attività, capito? Avanti capi, che qua sento profumino e piatti che stanno volando. Capri, va bene, dai, buona cena, buon tutto, le prossime, ci sentiamo. Fatti sentire la sera, chiama, fai una chiamata, io già sono in ascolto, chiamato stasera, ripeto, non mi ha risposto nessuno. Io sono sempre qua, a volte mi sposto, ma ce li ho due accese, quindi a volte mi metto ad ascoltare sul 23, ma se chiamate qua già rispondo. Naturalmente se sono presente in sala radio. Ciao, alle prossime, vai Marco. Kappa. Allora, io sto finendo di cenare, buona cena per Claudio. Capri 2 se non ha cenato, buona cena lo stesso. E vabbè, se state chiudendo già ci sentiamo un'altra volta. Non lo so, Claudio, stimola Franco a entrare, non lo so, una volta entrava a fare battute anche a mascherato, un po' di gente di passaggio adesso che non entra nemmeno più. Sembra che anziché si stiano togliendo antenne, non lo so, radio, non ha più voglia la gente. Sono 23, si incampa un po'. Un PMR qualcosina, Luca del Monte, un po' parla lì soprattutto. E vabbè, quindi anche il canale monitor nostro forse, non lo so, forse non è più usabile, no? Per evitare storie, non lo so, dimmi tu. Ma guarda, non so neanche io, è acceso però se no... È giusto come monitor, come dici tu, capito, non come, come il PMR. È meglio così, chiaro che è, se dobbiamo dirci qualcosa, due passaggi possiamo farli, non è un problema, però è meglio tenerlo come monitor, va bene, è che ti dica così e basta, comunque possiamo usarlo, non è un problema questo, va bene Marco. No, ma è Franco, anche stamattina alle 7:30 mia moglie stava parlando con la moglie, quindi so che è impegnato anche lui al lavoro, è sempre in trasferta, la sera non ne ha voglia, capito. E il provvedimento mascherato è entrato quando l'altro giorno che era in FM con Gianfranco. E io ci avevo gente purtroppo, non avevo gente non potevo entrare, capito? Però insomma, il passaggio già ce n'è, dai. Ho detto, fate come credete, non è un problema per me, io ascolto lì, non mi piace parlarci, basta, sto qua, non è un problema, io non c'ho niente con nessuno, ma mi piace stare qua, e basta, capito, l'altro giorno è entrato Graziano, poi a fare due chiacchiere, è entrato anche Coso, Marino, cioè, no, di passaggio già entra la gente. Capito? È che è un periodo un po' così, un po' per tutti mi sembra, è un po' poca voglia ne abbiamo, però già va bene lo stesso, dai. L'importante è che ci siamo, ci sentiamo, se non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, ogni tanto, pazienza, e si abbiglia le luci, tanto mi appena arriva il tempo buono, febbraio, marzo, cosa pensi? Che me ne sto a casa, iniziamo a uscire anche la sera. Va bene Marco, dai, io vado a cenare, fatti sentire, ci sentiamo domani al limite. Saluto tutti quelli che sono all'ascolto. Buonanotte a tutti, a frappè. Ehi, vabbè, ma c'hai in estate, diciamo, vabbè, la gente è fuori, bla bla bla, in vacanza, e niente. In autunno, lo stesso, poca roba. In inverno, che la gente dovrebbe stare a casa, lo stesso, vabbè, tu dici, ci dedichiamo ad altro, certo, anch'io non è che vivo di radio. Non è entrato più Antonello Di Ossi, che mi aveva messaggiato che entrava prima o poi, ma non... niente, proprio... E vabbè, vuol dire che destino, non lo so. Vabbè, ciao Claudio, buona cena, ciao Capri lo stesso, ciao a tutti quelli all'ascolto, ciao ciao. Marco, si vuole entrare, entrare, se no, come ti dico, te lo dico, si rabbiglia le tutti in gomma le vostra mano. Ciao. Ciao ciao.